Capitolo terzo. Soggiorno a Venezia. Mia madre mi aveva portato a passare qualche settimana a Venezia, e dato che può esserci della bellezza, oltre che nelle cose più umili, anche nelle più preziose, vi gustavo impressioni analoghe a quelle provate così spesso in altri tempi a Combray, ma trasposte secondo un modo completamente diverso e più ricco. Quando alle 10 del mattino venivano ad aprire le mie imposte, vedevo fiammeggiare al posto del marmo nero in cui si trasformavano risplendendo le lastre d'ardesia di Saint-Hilaire, l'angelo d'oro del campanile di San Marco, rutilante d'un sole che rendeva quasi impossibile fissarlo, con le sue braccia spalancate mi faceva, per quando mezz'ora più tardi sarei stato sulla piazzetta, una promessa di gioia più certa di quella che poté mai essere incaricato d'annunciare agli uomini di buona volontà. Finché ero coricato, non potevo scorgere che lui, ma poiché il mondo non è che una grande meridiana su cui un solo segmento soleggiato ci permette di vedere che ora sia, sin dalla prima mattina pensai alle botteghe di Combray, che nella piazza della chiesa di domenica erano sul punto di chiudere quando io arrivavo per la messa, mentre la paglia del mercato odorava forte sotto il sole già caldo. Ma dal secondo giorno ciò che vidi svegliandomi, ciò per cui mi alzai, giacché s'era sostituito nella mia memoria e nel mio desiderio ai ricordi di Combray, furono le impressioni della mia prima passeggiata mattutina a Venezia dove la vita quotidiana non era meno reale che a Combray e dove, come a Combray, la domenica mattina si aveva il piacere di scendere in una strada in festa, ma dove questa strada era tutta un'acqua di zaffiro, rinfrescata da soffi tiepidi, ed un colore così resistente che i miei occhi stanchi potevano, per distendersi e senza timore che cedesse, appoggiarvi lo sguardo. Come a Combray la brava gente di Rue de l'Oiseau, anche in questa nuova città gli abitanti uscivano dalle case allineate una accanto all'altra nella gran via, ma questo ruolo di case proiettanti un po' d'ombra ai propri piedi era affidato, a Venezia, a palazzi di porfido e di diaspro, al di sopra della cui porta centinata la testa d'un dio barbuto, superandone l'allineamento come il picchiotto d'una porta a Combray, aveva per risultato di rendere più cupo con il suo riflesso non il bruno del suolo, ma l'azzurro risplendente dell'acqua. Nella piazza, l'ombra che a Combray avrebbero dispiegata il tendone del negozio di mode e l'insegna del barbiere, erano i fiorellini azzurri che sparge ai propri piedi sul deserto della pavimentazione invasa dal sole il rilievo d'una facciata rinascimentale. Non che non si fosse costretti, a Venezia come a Combray, quando il sole picchiava forte, ad abbassare lungo il canale delle tende, ma erano tese fra i quadrilobi e i viticci d'una finestra gotica. Lo stesso posso dire di quella del nostro albergo, davanti alla cui balaustrata mia madre m'aspettava guardando il canale con una pazienza che forse non avrebbe mostrata ai tempi di Combray, quando, riponendo in me delle speranze che poi non si sarebbero realizzate, non voleva lasciarmi vedere quanto bene mi volesse. Sentiva, adesso, che la sua freddezza apparente non avrebbe più cambiato nulla. E la tenerezza che mi prodigava era come quegli alimenti proibiti che non si rifiutano più ai malati quando si è ben certi che non potranno più guarire. Certo, gli umili particolari che rendevano individuale la finestra della camera di zia Léonie su Rue de l'Oiseau, la sua asimmetria provocata dall'ineguale distanza fra le due finestre vicine, l'altezza eccessiva del suo davanzale di legno e il ferro a gomito che serviva ad aprire le imposte, i due lembi di raso azzurro e inamidato che una fascia divideva e teneva scostati, di tutto ciò esisteva l'equivalente in quell'albergo di Venezia dove sentivo anche quelle parole così particolari, così eloquenti, grazie alle quali riconosciamo da lontano la dimora in cui rientriamo per la colazione e che restano più tardi nel nostro ricordo come testimonianza che quella dimora fu, per un certo tempo, la nostra. ma l'incarico di pronunciarle non era demandato, come a Combray e un po' dappertutto, alle cose più semplici, se non addirittura alle più brutte, ma all'ogiva ancora mezzo araba riprodotta in tutti i musei di calchi e in tutti i libri d'arte illustrati come uno dei capolavori dell'architettura domestica del Medioevo. Da parecchio lontano, appena superato San Giorgio Maggiore, scorgevo quell'ogiva che m'aveva veduto, e lo slancio dei suoi archi spezzati aggiungeva al suo sorriso di benvenuto la distinzione d'uno sguardo più elevato e quasi incompreso. E poiché dietro quei balaustri di marmo di vari colori la mamma leggeva aspettandomi, il viso raccolto in una veletta di tulle d'un bianco non meno straziante di quello dei suoi capelli per me, che sentivo come mia madre l'avesse, nascondendo le lacrime, aggiunta al suo cappello di paglia non tanto per apparire elegante alle persone dell'albergo, quanto per sembrare a me meno in lutto, meno triste, quasi consolata della morte della nonna. Poiché, non avendomi riconosciuto subito, non appena la chiamavo dalla gondola, mandava verso di me, dal fondo del cuore, il suo amore, che s'arrestava solo dove non c'era più materia per sorreggerlo, alla superficie del suo sguardo appassionato che cercava di avvicinare il più possibile a me, di innalzare, sporgendo le labbra in un sorriso che sembrava baciarmi, entro la cornice e sotto il baldacchino del più discreto sorriso dell'ogiva illuminata dal sole di mezzogiorno, a causa di tutto ciò, quella finestra ha preso nella mia memoria la dolcezza delle cose che assieme a noi, contemporaneamente a noi, ebbero la loro parte in una certa ora che suonava identica per noi e per loro. E per quante e quanto splendide siano le forme racchiuse fra le sue colonne, quella finestra illustre conserva per me l'aspetto intimo d'un uomo di genio con il quale si sia trascorso un mese nello stesso luogo di villeggiatura e che abbia contratto per noi una qualche amicizia. E se da allora, ogni volta che vedo il calco di quella finestra in un museo, sono costretto a trattenere le lacrime, è semplicemente perché essa mi dice la cosa che più d'ogni altra può commuovermi. Me la ricordo molto bene, vostra madre. E per andare a raggiungere la mamma, che aveva lasciato la finestra, nell'abbandonare il caldo dell'aria aperta, avvertivo la stessa sensazione di freschezza provata un tempo a Combray, quando salivo in camera mia. Ma a Venezia era una corrente d'aria marina a mantenerla, e non più lungo una scaletta di legno dalla stretta pedata, ma sulle nobili superfici di gradini di marmo schizzati ad ogni passo da lampi di sole glauco che all'utile lezione di Chardin, ricevuta un tempo, aggiungevano quella del veronese. E poiché a Venezia sono opere d'arte, sono le cose magnifiche a svolgere la funzione di darci le impressioni familiari della vita, equivale a eludere il carattere di questa città, col pretesto che la Venezia di certi pittori è freddamente estetica nella sua parte più celebre, rappresentarne soltanto, fanno eccezione i superbi studi di Maxime de Thomas, gli aspetti miserabili, là dove viene meno quel che fa il suo splendore, e per rendere Venezia più intima, più vera, farla assomigliare a Aubervilliers. Per una reazione affatto naturale contro la Venezia finta dei cattivi pittori, artisti grandissimi hanno avuto il torto di dedicarsi unicamente, trovandola più realistica, alla Venezia degli umili campi, dei piccoli rii abbandonati. Era questa che esploravo spesso durante il pomeriggio, se non uscivo con mia madre. Ci trovavo più facilmente, infatti, quelle donne del popolo, fiammiferaie, infilatrici di perle, lavoranti del vetro o del merletto, piccole operaie dai grandi scialli neri a frange, che niente mi impediva di amare perché avevo in gran parte dimenticato Albertine e che mi sembravano più desiderabili di altre perché la ricordavo ancora un poco. Chi, d'altronde, avrebbe potuto dirmi esattamente, in questa mia ricerca appassionata delle veneziane, quanto ci fosse di loro stesse, quanto di Albertine, quanto del mio vecchio desiderio d'un viaggio a Venezia? Ogni nostro desiderio benché unico come un accordo, accoglie in sé le note fondamentali su cui è costruita tutta la nostra vita. E a volte, se ne sopprimessimo una che peraltro non sentiamo, di cui non abbiamo coscienza, che non si ricollega in alcun modo all'oggetto cui miriamo, vedremmo comunque svanire tutto il nostro desiderio di quell'oggetto. C'erano molte cose che non cercavo di distinguere nell'emozione che provavo correndo alla ricerca delle veneziane. La mia gondola seguiva i piccoli canali, come se la mano misteriosa di un genio m'avesse condotto per il labirinto di questa città d'Oriente. Essi sembravano, via via che procedevo, di schiudermi un sentiero, scavato nel cuore d'un quartiere che suddividevano scostando appena, con un sottile solco tracciato arbitrariamente, le alte case dalle piccole finestre moresche. E come se la magica guida avesse avuto fra le dita una candela e m'avesse fatto luce al passaggio, facevano brillare davanti a loro un raggio di sole cui aprivano il cammino. Si sentiva che fra le povere case che il canaletto aveva appena separate e che altrimenti avrebbero formato un blocco compatto, nessun posto era stato riservato. Così, il campanile della chiesa o i pergolati dei giardini sovrastavano a picco il rio come in una città inondata. Ma per le chiese, come per i giardini, con una trasposizione identica a quella del Canal Grande, in cui il mare si presta tanto bene a svolgere la funzione di via di comunicazione, da ogni lato del canaletto le chiese sorgevano dall'acqua in quel vecchio quartiere povero e popoloso, parrocchie umili e affollate recanti l'impronta della loro necessità, della frequentazione di tanta piccola gente. E i giardini, attraversati dal taglio del canale, lasciavano pendere fin nell'acqua le foglie o i frutti meravigliati, mentre sul bordo della casa, la cui pietra grossolanamente tagliata era ancora rugosa, come se avessero appena finito di segarla brutalmente, dei ragazzetti sorpresi, senza perdere l'equilibrio, lasciavano ciondolare a piccole gambe, perfettamente a perpendicolo, al modo di marinai seduti su un ponte mobile, le cui due metà si fossero appena dischiuse, consentendo al mare di insinuarsi fra loro. A volte appariva un monumento più bello, che figurava là come una sorpresa in una scatola aperta all'improvviso, un piccolo tempio d'avorio con i suoi ordini corinzi e la sua statua allegorica sul frontone, un po' spaesato fra le cose usuali in mezzo a cui si trovava, giacché per quanto ci sforzassimo di fargli posto, il peristilio riservatogli dal canale aveva pur sempre l'aspetto d'un molo di scarico per ortolani. Avevo l'impressione, ulteriormente accentuata dal mio desiderio, di non essere all'aperto, ma di entrare sempre più a fondo in qualcosa di segreto, perché ogni volta trovavo che qualcosa di nuovo aveva preso posto di fianco a me, da una parte o dall'altra, piccolo monumento o campo sconosciuto, con quell'aria stupita delle belle cose che vediamo per la prima volta e di cui non capiamo ancora bene la destinazione e l'utilità. Tornavo a piedi per piccole calli, fermavo qualche ragazza del popolo, come forse aveva fatto Albertine, e mi sarebbe piaciuto che lei fosse con me. Eppure non potevano essere le stesse. Quando Albertina era stata a Venezia, dovevano essere ancora delle bambine. Ma dopo essere stato un tempo, in un primo senso e per viltà, infedele a ciascuno dei miei desideri concepito come unico, giacché avevo cercato un oggetto analogo e non lo stesso che disperavo di trovare, adesso, sistematicamente, cercavo solo donne che Albertina non aveva conosciute, anzi, non cercavo più le donne che un tempo avevo desiderate. Molte volte, è vero, mi capitava di ricordare, con inaudita violenza di desiderio, una ragazzetta di Meseglise o di Parigi, la lattaia vista un mattino ai piedi d'una collina nel mio primo viaggio verso Balbec, ma le ricordavo, ahimè, come erano allora, cioè come sicuramente adesso non erano più. Così, se in altri tempi m'ero lasciato indurre a mitigare la mia impressione dell'unicità del desiderio, cercando, al posto di un'educanda perduta, un'educanda analoga, adesso, per ritrovare le ragazze che avevano turbato la mia adolescenza o quella di Albertine, dovevo accettare un'ulteriore deroga al principio dell'individualità del desiderio. Non dovevo cercare quelle che avevano 16 anni allora, ma quelle che avevano 16 anni oggi. Perché adesso, in mancanza di quel che c'era di più particolare nella persona e che mi era sfuggito, ciò che amavo era la giovinezza. Sapevo che la giovinezza di quelle che avevo conosciute esisteva ormai solo nel mio ardente ricordo, e che per quanto intenso ne fosse il mio desiderio, quando la memoria me le metteva davanti, non loro dovevo cogliere se volevo veramente far messe della giovinezza e dei fiori di stagione.